Il 23 dicembre dell'anno scorso abbiamo festeggiato i primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale e in questo quarantennale credo che sia opportuno ricordare a tutti quelli che sono i cardini su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale, che in qualche modo sono stati anche alla base del lavoro della manifestazione che io organizzo. Una sanità aperta a tutti, una sanità che sia quanto più possibile efficace, che non faccia distinzioni di censo o di nessun altro tipo, è qualcosa che credo vada oggi salvaguardato e in qualche modo diffuso come principio. Noi lo facciamo attraverso un'attività come la manifestazione fieristica e per questo motivo abbiamo deciso di organizzare questo evento, perché i principi cardine su cui si fonda il nostro Servizio Sanitario Nazionale sono per noi elementi irrinunciabili. Ecco, ha già anticipato alcune cose, però forse vale la pena di sviluppare questa riflessione, perché da italiani noi forse oramai non ci pensiamo, a volte siamo concentrati anche nel lamentarci dei problemi che incontriamo quando ci dobbiamo interfacciare con la sanità pubblica, però in realtà il nostro modello è invidiato in tutto il mondo. Sì, è un modello che si colloca ai primi posti al mondo e al secondo in Europa, secondo un recente studio portato avanti da Bloomberg. Ed è vero che non mancano le criticità, come lei ricordava, ma è vero che se pensiamo a quello che succedeva prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il panorama era assolutamente più negativo. Ossia, il sistema mutualistico, che in buona sostanza è stato scardinato con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, era un sistema che in qualche modo copriva e proteggeva solo una parte della popolazione, in buona sostanza quella attiva dal punto di vista lavorativo, lasciando scoperti ampi margini degli italiani, in primo luogo le donne e quindi tutte coloro che non avevano un'occupazione lavorativa. Passare nel 1978 all'idea che invece la sanità fosse un diritto, come peraltro era già stato sancito nella nostra carta costituzionale, e un diritto inattaccabile per tutti gli strati della popolazione, fu un salto epocale, e lo fu anche perché attorno a questa idea si trovarono d'accordo essenzialmente tutti gli spettri politici del Parlamento, superando come molto spesso accade in queste occasioni, le divisioni politiche a fronte del raggiungimento di un obiettivo che garantiva il bene comune. E quindi è vero, non mancano oggi punti deboli e i nodi irrisolti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, però è un fatto che la conquista raggiunta nel 1978 è qualcosa di cui ancora oggi noi godiamo e che dobbiamo difendere anche per il futuro. Certo, ecco, già nel sottotitolo si parla di sfide future e poi vedo anche nel programma appunto del convegno, che ricordo ancora una volta si svolgerà dalle 10 alle 13 domani a Palazzo da Curzio in Cappella Farnese, e si parla appunto delle sfide future, dell'evoluzione e anche di quelle che saranno appunto le sfide. Quali sono? Una delle prime sfide che dovremo affrontare, che è già all'ordine del giorno, è quella dell'invecchiamento della popolazione. Gli italiani vivono sempre più a lungo e questo è un fatto positivo, però questo porta con sé anche tutta una serie di problematiche. La prevenzione è un altro tasto un pochino dolente, pur essendo tra, come dire, gli obiettivi che ci si era dati con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, è vero che in tema di prevenzione di malattie in senso molto ampio ancora tantissimo c'è da fare, e su questi due temi credo che chiunque sarà chiamato ad occuparsi di sanità nel futuro prossimo venturo dovrà a lungo riflettere e trovare delle soluzioni di carattere organizzativo, perché è di questo che si tratta, che tengano assieme la volontà di garantire il diritto alla sanità e alla salute e i vincoli economici che nel frattempo dobbiamo anch'essi in qualche modo rispettare. E infatti proprio su questo volevo farle una domanda, perché appunto le sfide che citava sono abbastanza ambiziose, ma siamo comunque ancora in un'epoca di spending review, di problemi di bilancio, di tagli alla sanità, quindi la sanità riuscirà a raccogliere queste sfide? Cito da questo punto di vista uno dei relatori che ospiteremo domani, che è Francesco Taroni dell'Università di Bologna, che dice che la sanità italiana è in qualche modo simile ad un calabrone. La fisica dice che non potrebbe volare, ma lui a tutti gli effetti lo fa. Ed è vero che in questi 40 anni sono stati tantissimi i momenti critici in cui si credeva che il Servizio Sanitario Nazionale non avrebbe retto l'urto. Non ci possiamo che augurare che questa dinamica incredibile del calabrone relativa al Servizio Sanitario Nazionale continui a realizzarsi e a verificarsi. È vero, le criticità non mancano ed è vero che ci sono dei rischi esogeni come una situazione economica globale non favorevole e una politica di contenimento della spesa che non verrà meno nei prossimi anni. Fino ad adesso in un qualche modo un equilibrio si è trovato, lo si è trovato cercando di organizzare in maniera migliore le risorse a fronte della garanzia di determinati servizi essenziali. Ecco, in questo senso occorrerà anche in futuro, in maniera ulteriormente esasperata, organizzare quello che si ha, organizzarlo al meglio perché continui a rispondere ai bisogni dei cittadini. Ecco, c'è un altro tema connesso anche a questi di cui stiamo parlando, che quando si parla di sanità viene evocato, è il concetto di sussidiarietà, che per qualcuno, a qualcuno preoccupa, insomma, perché si pensa alla privatizzazione. Come interpretare correttamente il concetto di sussidiarietà? Beh, guardando ai lati positivi che sono emersi dalla collaborazione pubblico-privato in questi 40 anni e quindi senz'altro una collaborazione tra le realtà private e quelle pubbliche ha garantito al cittadino la possibilità di accedere a dei servizi organizzati in maniera più efficace ed efficiente. Non si è andati verso una privatizzazione della sanità, ma verso una collaborazione tra questi due mondi, che a tutti gli effetti ha dato dei risultati positivi e che crediamo non potrà venir meno anche nel futuro prossimo venturo. Certo, allora le lascio l'onere e l'onore di ricordare l'appuntamento di domani. Bene, allora l'appuntamento, come diceva giustamente lei, è fissato per domani a Palazzo D'Accursio dalle 10 alle 13 con un convegno che ha come titolo 40 anni di salute, risultati raggiunti e sfide future per il Servizio Sanitario Nazionale e con l'augurio da parte di Expo Sanità, come credo di tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa, che il servizio abbia una vita lunga.